senso e col io fra da noi stolonie fnich pradodost pragore mne peli lo ispesse na donna pamiat vre Son bom, pai,